ad alta voce. Maria Paiato legge Il Comunista di Guido Morselli. Quattordicesima puntata. Cominciava appena la mattina. Le luci nelle strade erano ancora accese e Ferranini aspettava sotto la casa di Reparatore. Si era fatto precedere da una telefonata. Reparatore venne giù col suo borsone. Partiva alle 8:30 per Foggia. Una vettura li portò a Palazzo Margherita. Il fratello della signora Francesca, moglie di Reparatore, era capo portiere all'ambasciata degli Stati Uniti. Bisogna aspettarlo, non si era ancora alzato. Un visto di soggiorno di una settimana, onorevole. A lei non lo danno nemmeno per 24 ore. Ma provi, è impossibile, lei sa il perché. Ferranini sapeva il perché troppo bene. Lo aiutò la lucidità illogica dell'esasperazione. Sono sposato a una cittadina americana. Prenda qua, questo è il promemoria, lo faccia vedere. L'altro si strinse nelle spalle, dubbioso. Ma prese il foglio. E poi vorrebbe partire stasera. Sarà difficile in ogni modo. Vabbè, mi do da fare, tento. Lei mi telefoni a mezzogiorno. Alla stazione Termini, dove aveva accompagnato Reparatore al treno, si informò per i biglietti sull'aereo. Ma non c'era un solo posto. Poteva, a suo rischio, riprovare a Ciampino stesso, qualche ora prima del volo. Capita a volte che il posto salti fuori. Lasciata l'agenzia, si rese conto che se il posto ci fosse stato, non aveva i quattrini con che pagarlo, non li aveva con sé, non li aveva a casa. Per il più liscio dei viaggi gli ci volevano 400.000 lire. Pensò ad Amoruso, troppo lontano, e d'altra parte non aveva piacere di farsi prestare quattrini da quello là. Andò a sedersi in una sala d'aspetto. Però era lucido, la testa gli rispondeva. Una soluzione non tardò molto a trovarla. Andare alla camera, tentare di farsi dare un acconto sui suoi assegni. Si appese sul predellino di un autobus, alla presidenza. Chiese del vice, ma con poca fiducia. A quell'ora, soltanto le 9:15, non doveva esserci e non c'era. C'era invece lo stesso presidente, che andava celebre di fatti per le sue abitudini singolarmente mattiniere. Pochi minuti di anticamera e Leone lo faceva introdurre nel suo gabinetto. Aggrondato, cortesissimo ma severo, lo sguardo penetrante. «Ho seguito la sua vicenda, so quali ragioni la muovono. Se lei permette, sono qua per domandarle. Mi creda, Ferranini, so». E questo le dico. Di sopra dei gruppi ci sta il Parlamento. Quali che siano per essere le misure che il gruppo intenda applicarle, o meglio, presuma di poterle applicare. Ma no, mi lasci dire, onorevole presidente. Leone si ritolse gli occhiali, se li forbì lungamente al fazzoletto. Era la terza volta che eseguiva la manovra. Anche questo qui, pensò Ferranini infastidito, sempre alle prese con gli occhiali, non ce n'è uno che ci veda coi suoi occhi. E la lascio dire, che vorrebbe dire? Il mandato suo le viene da una porzione del corpo elettorale, irrevocabile. Guardi, mi permetta, sono qua per un motivo strettamente personale, mi faccia parlare. Il fastidio, il dispetto gli strizzavano i nervi. Parli, parli, e chi vuole impedirglielo? Spiegò in poche parole. L'altro ebbe una smorfia, si tolse definitivamente gli occhiali e la grossa voce napoletana gli si fece chioccia. Vedo, mi dispiace per sua moglie. Avverta il suo gruppo che deve assentarsi. Il rimanente esula dalla competenza mia, è cosa della questura del segretario generale. Vada pure. Fu fortunato. La fine del mese era vicina. Ottenne il mandato. Gli uffici gli liquidarono anticipati i suoi assegni prima di mezzogiorno usciva. Non gli era piaciuto telefonare dalla camera, cercò un telefono pubblico. Caputo, il portiere dell'ambasciata, gli rispose che non aveva potuto fare niente, richiamasse più tardi, non prima delle 3 o le 4. La libreria di Nuccia distava pochi passi. Ci arrivò. «La signora Corsi, dov'è? Fuori?» «È a Milano, non glielo aveva detto?» fece Holzener indiscreto. «Ma se non c'è mai quella donna!» gridò lui. «Non c'è mai!» Glielo aveva detto anche. E chi aveva testa da ricordarsi? Fatto è che lui la cercava e non c'era. «Cosa va a fare? Cosa va a fare?» dico. «Sempre a Milano, sempre via, sempre in giro!» gridava. Holzener, il commesso ed ex seminarista al collegio germanico, era lungo, strabico e solitamente malinconico. Gli teneva dietro con lo sguardo, divertito e compunto. Diede una pedata all'uscio, entrò di là nello studio di Nuccia, si piantò seduto alla scrivania. Davanti a lui la scatola delle Turmac, appena cominciata le sue sigarette, e come un piccolo proiettile puntato al soffitto, l'ogiva dorata della matita per le labbra. Guardò se trovasse un foglio e una busta da lasciarle due righe, alzò la cartella di cuoio, aperse un cassetto, a stento, trepidava dalla collera. «Holzener, dammi una busta! Non c'è un pezzo di carta, caspita, d'una libreria!» Comparve la commessa stavolta, tutta timida. «Stanno lì le buste, onorevole, lì infilate, eccole!» Ma non aveva più voglia di scrivere. «Glielo faccia sapere lei!» disse alla ragazza, squadrandola, senza moderare la voce. «Devo partire, non so quando torno. E poi le dica anche questo alla signora Corsi, che adesso ci vedo più chiaro e il resto era miseria. Precisamente così le dica, miseria!» Quella, costernata più che stupita, lo contemplava e scuoteva la testa. «A lei lo racconto, sì, lo posso raccontare a chiunque, non mi vergogno!» Prese fuori il telegramma da New York. Lo aperse sulla scrivania, ci cacciò sopra il fermacarte, uscì. Arrivato all'angolo della strada, tornò indietro, attraversò la libreria, raggiunse lo scrittoio di Nuccia, si rimise in tasca il telegramma. Vide l'astuccio dorato della matita per le labbra. Fece sparire l'astuccio nel taschino della giacca e se ne andò. Rientrò a casa a fare un po' di bagaglio e a un tratto, stava tirando la cinghia della sua vecchia valigia, capì che lui non partiva, ripartiva. Quei 13 anni che erano passati si ripiegavano su se stessi più facilmente che non fosse sceso il coperchio sulla valigia troppo piena. Non erano stati, con tutta la vita che racchiudevano, che un intervallo. Con tutta quella vita, con tutte le cose che per 13 anni gli erano state essenziali. Trascinandosi le sue robe, arrivò a Palazzo Margherita. Il bravo Caputo allargò le braccia. Niente ancora. Ma Ferranini non ebbe dubbi di poter andar via. 2 ore più tardi, quando il passaporto fu pronto col visto d'ingresso e il permesso di soggiorno di una settimana, permesso turistico per ironia, Caputo, nel consegnarglielo, si vantò di avere fatto un miracolo. E a Ferranini sembrò che fosse soltanto una cosa logica. E non si stupì che a Ciampino gli dessero subito il posto per il volo delle 20:45. Doveva partire. Il ciclo era chiuso. Il richiamo di Nancy era venuto al momento giusto. Nancy, puntualmente la donna del destino, come il titolo del film che aveva veduto al cinema. Lei aveva segnato l'ora della partenza, segnava quella del ritorno. Un'altra sala d'aspetto all'aeroporto e circa 2 ore da aspettare. Scrisse a Amoruso. Mise l'indirizzo di Formia sulla cartolina e aggiunse «Molti ringraziamenti a te e ad Ele per tutto quanto». Si congedava. Pensò a chi altri potesse mandare il suo ultimo saluto per impiegare l'attesa. Gli venne in mente, ma per quella bastava un colpo di telefono. La mattina, mentre aspettava nel tassì dall'altra parte della strada, aveva riconosciuto la figlia di Reparatore sul portone alle spalle del padre. Chiamò. Venne lei. Se sapessi come hai fatto bene, gli fu risposto prima che potesse dire chi era. Ho passato una brutta giornata. Dimmi che cosa ti succede. Le disse, stava partendo. Le spiegò brevemente. Ma che? Ma non eri divorziato? Perdona, Walter. Lo sono divorziato. E tu, riprese la voce dopo una pausa, tu speri di non arrivare tardi. Non le rispose. Perché dovesse avere questa sicurezza non lo sapeva, ma era sicuro di non arrivare tardi. Non era finita per lui, doveva ancora vivere e per questo occorreva che Nancy ci fosse, Nancy e il resto. E l'avrebbe trovata. Sino alla sera, leggendo il telegramma, aveva conosciuto che doveva essere così. Per l'articolo, perdonami ancora, hai avuto qualche dispiacere? La domanda lo riportava indietro, sgradevolmente. No, niente. Tutto è stato minimizzato e sì che parlavo chiaro. Come dici? Minimizzato in che senso? Noi promettiamo un cambiamento nell'insieme della vita, un cambiamento positivo. No, non parlare così forte, siamo al telefono. E cosa importa? Quella promessa è falsa, ho detto, perché la somma resta sempre la stessa, anche se cambiano i termini o cambiano segno. Ci sarà meno giustizia, ma non meno sofferenza totale. Questo ho detto ieri. Bene, nessuno mi torce un capello, tutto come prima, tutto pacifico. E non è meglio? Che cosa avresti voluto? Walter, ti prego, dimmi quando torni, bisognerà pure che torni. Tornare, ribatté. Sono stato via 13 anni e non me ne accorgevo, ma l'America mi mancava. Là c'è più spazio, tu non te lo figuri. Là le campagne sono immense, sembrano parchi, c'è più spazio, in tutti i modi. È un'esistenza diversa. Rifletti, per carità, rifletti, riprese la voce con stupore e indignazione. Non vorrai dirmi che scegli l'America per questo? Non è possibile, è un altro mondo, lui seguitava. E io sono stanco, voglio cambiare, voglio vivere liberamente, è chiaro? Non è possibile, tu tornerai, questa reazione è impulsiva, tornerai presto qui, a te stesso, tu non sai niente, è facile dire. Sono mesi o anni che mi dibatto. No, supplicò la voce. Lasciati persuadere, Walter. In America non puoi avere quello che cerchi. Non può essere la tua terra. Ti deluderà. Ma almeno io cambio. Nemmeno tu mi prendi sul serio. Ma ti garantisco che non c'è più niente da fare per me. Mi credevo di essere un gregario, tranquillo, docile. Mi sono ingannato. Avrò anche ingannato. Ma basta. È venuto il momento della chiarezza, capisci ora, vero? Si sentì meschino sino al ridicolo. Aveva appena finito di parlare e richiudeva la porta della cabina. Ma cosa? Cosa? Andare a raccontare a quella ragazza i fatti suoi, i più segreti della sua vita, la sua stanchezza, i suoi dubbi, i contrasti. Lasciarsi rimproverare, lasciarsi compatire. Siccome non aveva trovato Nuccia, ecco che prendeva quest'altra, si scaricava con quest'altra. E le donne lui preferiva. Comunista da canzonetta. Dopo l'esempio di Mazzola. Un Mazzola che era capace di non dire una parola a sua moglie nel momento più tragico. Cercò l'uscita, andò fuori, all'aperto. Aveva bisogno di muoversi, di tirare il fiato. Un sistema nervoso con un cervello per accessorio. La gente come lui, Lenin, l'aveva definita a quel modo. Ex operaio, sì, col sistema nervoso del borghese. L'uomo dietro il banco che gli serviva un caffè gli indicò un tale seduto all'altra estremità del locale, assorto sopra un bicchiere. Vede quel giovanotto? Parte con lei ed è arrivato stamane da New York. È un americano negro. Arriva qui 3 o 4 volte al mese. Non si muove dall'aeroporto. La sera riparte. Ha i quattrini da buttar via. Qui dentro o sulle poltrone dell'aereo lascia dei volantini. Ce n'era uno su un tavolino. Portava stampate 3 o 4 righe. Life's but a walking shadow, a poor player. It is a tale told by an idiot, full of sound and fury, signifying nothing. Mentre Ferranini leggeva, l'americano, un individuo elegante dal fisico atletico, alto sui 35 anni, gli venne vicino. Sono frasi di Shakespeare. Conosce Shakespeare? No. Vuole che parli italiano? Ho fatto la guerra in Italia, parlo italiano. No, no, meglio l'inglese, devo fare pratica. Si sedettero al tavolino. Dopo le 8 di sera comincia un'ora morta per Ciampino ed erano quasi soli. Lei distribuisce questi foglietti? La vita è un'ombra, una storia raccontata da un idiota? E cosa le salta in mente? Non è allegro per uno che si mette in viaggio. Lamoureux si era presentato. John R. Lamoureux, di New York e New Orleans, rise. Non allegro, ma salutare. La gente che viaggia si illuda di evadere o di darsi da fare. Sempre si illude. Il loro viaggiare è supremamente inutile, come il culmine della cosa inutile che è il loro vivere. Io mi incarico di avvertirli. Andate unicamente per andare, rendetevene conto. Vuole avere un drink? Una sigaretta? E questa morale lei la cava dalla sua esperienza personale? Dalla mia esperienza di americano. E l'America è un mondo, è il mondo. Dunque si adatta a tutti quanti. Distribuisco i miei foglietti a Roma, a Francoforte, a Parigi. Scendo a questi scali in media 2 volte alla settimana e li alterno. Io però, io solo non mi illudo. Io solo so di andare col solo scopo di andare. Ferranini non fece altre domande. Il negro, in realtà più chiaro di pelle di molti italiani, era troppo espansivo per i suoi gusti. Si lasciarono e lui passò al ristorante a mangiare. Ma il caso li voleva insieme. Dentro l'aereo ebbero 2 posti affiancati e dopo che in un turbinio di pioggia si furono involati dalla pista e il fragore dei motori lo permise, Lamoureux si volse a parlargli. Lei mi osserva, trova che non sono abbastanza negro, che non ho l'odore caratteristico. Difatti il mio sangue è bianco per metà, ma l'anima l'ho nera. E sono nero anche all'esterno, a tutti gli effetti. Vede, i vostri siciliani sono spesso più scuri di me e con i capelli meno lisci dei miei. Ma c'è la cornea, la dannata cornea. Nei bianchi, siciliani inclusi, è bianca o bianco celeste. Guardi bene, la mia è rosea. Questo è sufficiente. Questo mi bolla. Rise e aggiunse: non mi lamento di essere come sono. È una tradizione della mia famiglia. Oso dire, per giustificazione, un destino che noi Lamoureux si ricavi un vantaggio dalla negrità. Mio nonno a New Orleans, qualche anno dopo la guerra civile, proprio perché era un bel negro lungo e robusto, piacque a una signora francese che gli lasciò il suo cognome e del denaro, oltre a un figliolo. Mio padre accrebbe il denaro facendo per tutta la vita a New Orleans prestiti su pegni alla gente di colore. Sposò una bianca, una messicana. Non l'annoio con queste storie. Si fece portare da bere e da fumare. Bevve, accese e poi disse: «Io in quanto a me non sono degenere. Ho guadagnato un mucchio di denaro dopo la guerra con l'onesto mestiere di sensale. Le spiego». C'è a New York un piccolo quartiere della città, circa una 30ina di blocks, qualche migliaio di appartamenti, dove la gente negra di successo fa le sue prove di infiltrazione tra i bianchi o di coabitazione. Una famiglia negra che ha avuto fortuna e ha messo insieme mezzi vuole a un certo punto lasciare Harlem e provare. Io gli procuro l'alloggio a cui aspirano, al margine della città proibita. Loro affittano o acquistano e mi pagano bene. Dopo 6 mesi si rendono conto che per loro, per noi, la vita lì è impossibile, resa impossibile. Si liberano dell'alloggio per mezzo mio e mi pagano bene. Il giorno dopo nuovi aspiranti subentrano e così è stato per 12 interi anni il mio mestiere. Poca fatica, denaro parecchio. Si chinò graziosamente a dare un'occhiata al suo compagno di viaggio e disse, ridendo: «Le faccio venir sonno. Molte volte con il mio racconto produco questo effetto e le compagnie mi dovrebbero un'indennità». Dunque, per 12 anni vita buona. Ma d'improvviso il vento è cambiato. Una sporca malattia che riduce il felice l'amoureux a un miserabile verme senza forza né voglia di trascinarsi. Neurosi d'angoscia. 3 mesi in clinica, sorvegliato a vista. Costretto a vivere, mio malgrado, da quella sorveglianza, perché è un male che ha un esito certo, uno solo, capisce quale. Io sono vissuto e sono guarito, ammalandomi di un male un po' meno grave, astenia depressiva con dissociazione, un male che permette di respirare e mangiare e deambulare, non di lavorare, non di dormire. Io non dormo dal 25 ottobre. Maria Paiato ha letto Il Comunista di Guido Morselli, a cura di Fabiana Carobolante con Chiara Valerio, Jacopo De Bertoldi e Ornella Bellucci. Sonorizzazione di Filippo Travaglio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.